Beam Busters! Steve called me up and said, wanna hang out tonight. We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home. Allora. Questa via l'amico tuo e gli spacco il culo. Bravo. Ma sapete che usano gli elicotteri per coltivare le ciliegie? Sì, ma per coglierle o proprio per coltivarle? Quando piove, che si bagnino, passano quegli elicotteri che col vento le asciugano. Ma dove vivi tu o in generale? In California lo fanno. È in California? No, a Seattle. A Seattle. Vabbè. E a Detroit invece? Mica c'hanno, fa freddo lì, ma senza resto qui. E che c'hanno a Detroit? L'ananas. Non c'è niente a Detroit. Non c'è niente? E che ci sta? E che ci sta? E sta nelle fabbriche. No, sta roba, coppa. Partiamo con la quinta puntata ormai di Filmbusters. Siamo arrivati al giro di boa, dato che l'esperimento Cineplegge ci finì tragicamente dopo la quinta puntata. Io sono Alex Diro. Ciao. E con me ho i sorci... Intrinseco. Ciao! Detto anche Nicolete, rispolveriamo. No, per favore. e il Monco. Io invece mi faccio chiamare Nicolito, ma solo nel privato. Nicolito. Sembra doveroso dedicare questa quinta puntata a un grande attore che è scomparso, uno che conosciamo tutti anche per dei film italiani che ha fatto, e cioè Dino Cassio, che era famoso per Vieni avanti cretino, che era il prete che dava gli schiaffi a Lino Banfi. È morto il 9 luglio e vogliamo ricordarlo. È vero. C'è Dino Cassio. Era vero. No, la dedichiamo a Ernest Borgnine, dai. Va bene. E partiamo con la nostra rubrica dedicata ai trailers. Oggi, visto che comunque non ne sono usciti di particolarmente importanti durante la settimana, tratteremo tre trailer che ormai stanno imperversando nelle sale cinematografiche italiane, ovvero L'Hobbit, Skyfall e Dark Knight Rises. Iniziamo da L'Hobbit, ce ne parla l'intrinseco? Sì, mi sembra doveroso. È arrivato nelle sale anche il trailer dell'Hobbit, che è la prima parte di questo adattamento. Non so se in italiano c'è il sottotitolo, mi sembra di no. Sì, L'Hobbit, un viaggio inaspettato. Ah, ok, anche in italiano, ok, sì, no, sì. L'ho visto solo... E sì, dunque gira su internet da un po' di mesi, ma nelle sale, come hai detto tu, è arrivato solo adesso. Insomma, è una, più che altro, una presentazione dei personaggi, anzi, è soprattutto questo, perché c'è proprio una lunga presentazione di tutti i nani che compariranno nel film, e un accenno, insomma, a quello che si vedrà, insomma, a quello che tutti conoscono dell'Hobbit, cioè il ritrovamento dell'anello e l'incontro con il Gollum. Rispetto alla prima impressione che mi aveva fatto, non so se è stato il cinema, che da noi proietta più scuro di qualsiasi altro cinema della provincia, quindi non so, mi ha fatto un'impressione migliore, perché ricordo che all'inizio non mi era piaciuto molto il make-up dei nani, se ne era parlato anche su internet, sembravano un po' troppo posticci, il classico make-up troppo rosa, troppo plasticoso. Non so, sarà stato il buio, sarà che l'avranno ritoccato un po', ma... l'impressione è positiva. Invece un'altra cosa che mi interessava evidenziare è che quanto è brutto il doppiaggio italiano. E a parte, sì, i personaggi che conosciamo già, che immagino terranno la stessa voce e si sente dal trailer, a parte forse, oddio, il doppiatore di Gandalf che è morto. Sì, infatti penso che l'unico rammarico, sì, grosso cambiamento, sia proprio il fatto che non ci sia Gianni Musi al doppiaggio di Gandalf. Se non sbaglio, nel trailer poi non ci sono scene in cui parla, quindi non possiamo neanche sentire. No, sì. All'inizio, proprio quando dice presenta i nani. L'inglese, sì. Sì. Non ce n'è fatto caso, era diverso. Madonna. Però vabbè, insomma, è probabile che poi venga anche cambiato il doppiatore in corso d'opera. Sì, volevo dire proprio quello, perché le altre voci sono a posto, ma quelle dei nani, o comunque di Thorin, davvero, è probabilmente la cosa più fuori posto che potessero scegliere, davvero, è... Aspetta. Io non... Il problema è che hanno tradotto le canzoni, più che altro. Vabbè, ci stavo arrivando. Comunque, la voce è brutta, almeno secondo me... È vero, un nano giovane non può avere la voce roca da Beone, però non mi piace. In più, proprio per questo tono che non mi garba, la traduzione della canzone è ancora meno bella. Già il fatto di tradurla, sì, è una cosa che avrei evitato personalmente. In più, sentirla così, davvero l'ammazza proprio l'atmosfera del trailer. Mi ricordo quando era uscito l'originale, sia in lingua originale al cinema, questa canzone, questa musica caricava parecchio. Invece in italiano, una mosceria. Oddio, non è che mi sia dispiaciuta più di tanto la traduzione in italiano, come dici tu, è proprio il fatto del doppiaggio che effettivamente non funziona. Che si può tradurre e magari mantenere un po' la forza della musica, però. Cioè, anche perché mette veramente i brividi quella canzone. Sì, è veramente eccezionale. Anche se credo sia doveroso comunque tradurlo per il pubblico italiano che casomai mastica poco l'inglese, perché insomma i testi delle canzoni di Tolkien sono abbastanza importanti e imparano a leggere, tanto ci metti i sottotitoli. Esatto, magari per carità. Sarebbe una soluzione mettere i sottotitoli, però vabbè, ormai è una battaglia persa questa qui. E per il resto penso si intraveda il solito talento visivo di Peter Jackson, soprattutto per quanto riguarda le scenografie, insomma, che sembrano sempre di altissima qualità. E diciamo pure che insomma ci ha messo una buona mano la Nuova Zelanda, che non so, basta inquadrarla, a mettere lì una telecamera e viene qualcosa di bello. Poi certo, sono gli interni, le vere e proprie scenografie, sì, c'è la solita cura maniacale, ma si vedeva anche nei backstage all'inizio, quando ritiravano fuori quelli vecchi e preparavano quelli nuovi, proprio lui si divertiva girando in mezzo a queste ricostruzioni. Anche la grotta è finta, ma dal trailer non si direbbe proprio, è spaventoso. Beh, quindi mi sembra di capire che lo attendiamo tutti e tre abbastanza con trepidazione, o no? Mia tanto. Cioè sì, meglio questo che un film comic, ma non sono un fan del fantasy, quindi... Però ecco, io non sono d'accordo su quello che dite sui nani, perché io li definirei diversamente alti. E poi a quanto pare è ufficiale, che sarà in due parti, perché la prima esce... Questo si sa da secoli, insomma. Sì, ma poi, ma per esempio adesso non c'è scritto part 1 o quello che vuoi... Beh, immagino sia il sottotitolo c'è già anche il sottotitolo del prossimo. Dunque è solo per quello, non c'è un... Quale sarà il sottotitolo del prossimo? Oddio, mi ricordo. Dugoglioni. tipo il titolo del libro nel libro, cioè andata e ritorno, però non ti giurerei. Sì. Comunque è già in lavorazione, addirittura IMDb lo dà per il 2013, quindi probabilmente farà come ha fatto per Il Signore degli Anelli, cioè gira senza interruzioni e poi rilasciano questo, intanto la seconda parte è già in produzione. Vabbè, lo script ci ha messo le mani anche Guillermo del Toro, che mi sembra dovesse dirigerlo anche lui al primo episodio, poi però... Forse era il primo nome che era venuto fuori. Sì, vabbè, poi insomma, lo si sa che del Toro mette le mani in pasta ovunque e poi non conclude niente, quindi... Beh, insomma, è ritornato in mano a mani sapienti, quindi va bene così. Sì. Mi sa che tra l'altro ne parlammo anche in una puntata dei Cineplegici del fatto che se Del Toro poteva essere adatto a girare un film come Il Signore degli Anelli, insomma, quindi siamo al prossimo trailer, ovvero 007 Skyfall, e ce ne parla il Monco. Ale, io sono un grande fan di 007, no, non è vero, però ho passato un periodo in cui mi sono fatto una maratona che mi ha lasciato percosso e semimorto. E finalmente, vabbè, è da maggio che c'è questo trailer, però finalmente è uscito il trailer di Skyfall, ultimo James Bond, quello che non avremmo dovuto mai vedere, perché la MGM aveva rischiato la bancarotta, l'avevano cancellato, hanno detto che non avrebbero più fatto Bond perché sono troppo costosi, invece alla fine si sono ripresi e l'hanno fatto. Il trailer è minimale, come sarà poi il film, dicono. A me è piaciuto parecchio, non si vede granché, però mi sembra lo stile giusto. E poi in regia c'è forse il miglior regista che potevano scegliere dall'Inghilterra, a parte Nolan, che comunque ha detto che dopo Batman lui è interessato a fare il 007, questa è una news, a parte la Justice League, insomma vuole fare di tutto. Che, tornando al regista, è Sam Mendes, che si è portato dietro anche Deakins, suo direttore della fotografia, e ha collaborato anche lui alla sceneggiatura, anche se in origine doveva farla Peter Morgan, quello di The Queen, solo che poi, sempre per la bancarotta della MGM, lasciarono perdere. Beh, comunque c'è John Logan, che sì, sì, male non è, insomma, che è abbastanza rinomato. Che è stretto amico anche di Mendes proprio, quindi sì, sembra ottimo già dalle premesse. Poi si sarà molto incentrato su ambienti inglesi, perché le trasferte questa volta saranno poche. Mi sembra Istanbul, Nuova Delhi, Shanghai, insomma, poco. Bardem sarà il cattivo, il cast è il solito buono, c'è l'ex marito di Noomi Rapace, se vi interessa, o le Rapace, così. E insomma, sarà in IMAX, per chi, quei fortunati che riusciranno a vederlo, insomma, io sono speranzoso. Poi il primo capitolo con Craig era buono, il secondo no, e questo promette già bene. Ma sì, anche a me ha convinto abbastanza, l'ho trovato un po' freddino come trailer, anche come fotografia, però insomma ci sta. La cosa buona è che ricorda, almeno stilisticamente, ricorda molto Casino Royale, molto serio, anzi ancora più serio, mi ha dato questa impressione. Cioè, se non ci fosse scritto Skyfall, se non sapessi che è Bond, penserei a uno spy movie molto più grigio, molto più maturo. Quindi se va in quella direzione, quindi continua sulla scia di Casino Royale, quindi una visione un po' più seria del personaggio, mi sembra positivo. Sono curioso, ecco, dal trailer non vedo abbastanza per essere incuriosito, però ti ispira. Che poi c'è il ritorno di un elemento tanto caro ai Bond del passato, ovvero la presenza dei gadget, che personificata nel personaggio di Q, che tornerà, sarà un giovane Q e sarà interpretato da Ben Whishaw, quindi in un certo senso precedentemente avevano molto giocato sul fatto che non ci fossero i gadget e che quindi era un Bond un po' più maturo. C'è un po' di curiosità anche sul fatto che viene reintrodotto un elemento in un certo senso un po' fantascientifico, insomma, che è quello dei gadget di Bond, quindi vedremo come se la caveranno. C'è anche Ralph Fiennes, io quando c'è Ralph Fiennes nel cast vado in brodo di giuggiole, quindi sì, anch'io lo attendo più per i nomi coinvolti che per il trailer, che sì, effettivamente è alla fine un teaser trailer, quindi non è che dica molto. Niente, per me lo attendo con trepidazione. Oggi tutti e tre i film, insomma, sono abbastanza belli e cicciosi, quindi alla grande. Sono molto attesi da un bel po' tutti. Sì, infatti. E allora dai, passiamo all'ultimo trailer, ovvero quello di The Dark Knight Rises. E, come dicevamo per l'Hobbit, un trailer che in rete si trova da moltissimo tempo, circa dal 4 maggio. Tuttavia adesso stanno proiettando prima dei film in sala. Si tratta comunque, secondo me, del trailer migliore tra quelli usciti. Anzi, per quanto mi riguarda, la campagna marketing di Dark Knight Rises è stata una sorta di crescendo, perché all'inizio con il teaser famoso, con la scena dello stadio che mi era piaciuta, però il trailer non è che mai ha coinvolto più di tanto. Man mano, insomma, è montato l'hype, questo trailer visto al cinema secondo me veramente ti attacca alla sedia e emoziona veramente tantissimo. Comunque, alla fine le scene che si intravedono in questo trailer sono sostanzialmente quelle che si sono viste per mesi negli atti. Quello che secondo me rende questo trailer migliore è proprio il montaggio, ma anche l'accompagnamento sonoro con la colonna sonora di Hans Zimmer. Mi pare che sia il brano di punta, quello che si ascolta nel trailer, insomma. Vabbè, al di là, insomma, del trailer, che se ne può parlare fino a un certo punto, quello che è uscito di importante questa settimana è stata una featurette, un piccolo dietro le quinte di 13 minuti, che è stato pubblicato su YouTube dalla Warner e che per la prima parte parla dei vari personaggi con interviste anche agli attori protagonisti. E per la seconda parte dice qualcosa più o meno sulla lavorazione, ci sono anche parecchie immagini sui set. E non so se voi l'avete vista questo mini documentario. Sì, cioè, si vede un po' troppo, sì. Quasi tutto il film però. No, vabbè, perché alla fine sono le stesse scene che c'erano anche nel trailer, se ci fai caso. Ma... sì, secondo sì. me su questo c'è stata c'è stato molto riservo, anche perché a detta delle prime recensioni ci saranno parecchi colpi di scena, quindi Nolan su questo è sempre molto, molto ortodosso, insomma, non far vedere determinate scene fino alla fine. Quello che mi ha colpito di più è che, di nuovo, CGI ridotta all'osso, non si vede un green screen, tutto ricostruito artigianalmente, tra virgolette. Vero. Alla fine Nolan è forse l'unico grande regista che gira in questa maniera, senza l'ausilio, insomma, della computer grafica. Personalmente lo trovo apprezzabile, perché poi la resa visiva, secondo me, è maggiore anche di appunto delle scene in cui ci sono i green screen. Infatti, dal trailer, sebbene, ripeto, apprezzassi quella scena, quella che stonava un po' di più era proprio quella dello stadio, perché effettivamente lì c'è un po'... cioè, sì, che... non se ne poteva fare a meno, c'è un po' un abuso comunque però della peccato CGI. Perché le esplosioni di Nolan sono sempre abbastanza belle, per quanto sì. disastrose. Mi ricordo quella nel finale di The Dark Knight, che era quella era in parte ricostruita, quindi anche lì quando può evitare di ricorrere troppo alla computer grafica lo fa, però dava molta più concretezza all'immagine. Questa, al di là poi dell'effetto in sé, se ne è già parlato, la scena è un po' così, insomma, è una scena a effetto, quindi questa caduta del pavimento è tutto un po' così, però vabbè. Nel documentario si intravede, le esplosioni alla fine le hanno fatte dal vero, è giusto la... crollo, insomma, che è gestito il crollo del pavimento. Beh, che sì, l'attore messo davanti alla, sì, insomma, che corre sì. davanti alla caduta, chiaramente. Insomma. Niente, insomma, se volete dire qualcos'altro sul documentario, alla fine la cosa forse più importante è proprio questa: vedere come sono stati ricostruiti gli interni e gli esterni meticolosamente, tutti in maniera artigianale. Sì, no, a me ha fatto effetto che gli attori ne parlino, vabbè, insomma, ovvio che ne parlano bene, però ne parlano proprio come un buon film, perché io comunque ho ancora dei grossi dubbi, già da quando si pensava che Nolan la volesse far finita e quindi che la mettesse in cacciara e in un filmaccio quasi simile a Spider-Man 3, quindi mettere dentro troppa roba e troppi personaggi, poi è rimasto solo Bane come cattivo a quanto pare, ma poi sembrava che dovesse metterci qualsiasi cosa. E quindi sì, io sono ancora un po' dubbioso sul film. Per esempio Bane non mi convince in pieno. Lui è bravo, Nolan, a normalizzare i personaggi troppo fumettosi, però rimane sempre uno super muscoloso con la museruola. Non lo capisco. E anche Catwoman, cioè, era proprio necessaria. È un film così serio, la saga di Nolan, che ci devi mettere Catwoman. Per carità, poi lo farà benissimo, però io ho forti dubbi. Ci tocca aspettare ancora un mese, no, più, due mesi. Sì, due. Quindi, sono cavoli, so. Penso che sarà difficilissima l'attesa, almeno per gli appassionati della trilogia. Anche perché usciranno news, recensioni, approfondimenti a manetta in quel periodo, quindi vabbè. Io non mi ritengo appassionato, però effettivamente uno di quelli che aspetta di più. Ho qualche dubbio anch'io dall'inizio, non nulla di grosso, ma come fai a non attendere? Quindi, insomma, anche solo perché è conclusivo, c'è tanta attesa dietro, anche se magari all'inizio ti interessava meno, piano piano ti cattura, e almeno a me è successo così, soprattutto a partire dal secondo film. Io non sono un grande fan di Nolan, ma... È ufficiale che durerà 2 ore e 43, così. Sì. Beh, insomma, era dovuto, probabilmente. Anche a parte che, insomma, la media in Nolan è alta come durata, ma qui... È conclusivo, quindi deve anche chiuderlo. Poi, insomma, è un cattivo ingombrante, ci vuole un film ingombrante. Grande, per una grande parete ci vuole un grande pennello. esattamente. News! We'll be right back. Ecco un'altra, l'ennesima news su Ghostbusters 3. Siccome appunto è uscita una nuova news, abbiamo pensato di fare un bel riassuntone di tutte le news riguardanti questo film, che a quanto pare uscirà, non si capisce. Ci sono state almeno 5 false partenze da quando l'hanno annunciato la prima volta. Le news, intanto grazie a gbitalia.it, che è un sito dedicato ai Ghostbusters, che ha fatto tutta una cronologia delle news, in cui le news partono addirittura nel 1993, a qualche mese dall'uscita del secondo capitolo, in cui Dan Aykroyd in un'intervista a Playboy diceva che sì, va bene, è stato bello fare Ghostbusters 2, ma siccome Batman li spazzò via al botteghino, il guadagno fu talmente basso che nessuno pensava di fare un seguito. Nel 94 già cambia idea, nel 95 addirittura dice che ha una sceneggiatura, un copione, ha già scelto tutto, e, insomma è già pronto per un seguito. Però fin da subito Bill Murray, Sigourney Weaver e il regista Reitman dicono no, per favore, non facciamo una cazzata simile, rimaniamo al secondo capitolo e ne facciamo un altro. Però Aykroyd, che è sempre in comunicazione con Remis, sono sicuri di farne uno, e nel 98 addirittura hanno depositato presso la Sony i diritti per un 3 ed un 4. Infatti Aykroyd dice anche che la sceneggiatura del 3 finirebbe con un to be continued. Vanno avanti le news in continuazione, si dice che nel 99 devono partire le riprese, questa è la prima falsa partenza, cioè già nel 99 non ci doveva essere Murray, non ci doveva essere Sigourney Weaver, il regista sarebbe stato Remis, eccetera. Non succede niente, esce una nuova trama di cui non si sapeva nulla, in cui si dice che i Ghostbusters saranno di nuovo insieme tutti per sbarazzare il mondo da una peste poltergeist dopo che l'inferno ha dichiarato di non avere più posti vacanti nel XXI secolo. Questa era la prima sceneggiatura. Poi altre news, nel 2001 esce una nuova trama, c'è una lotta tra Sony e Columbia per i diritti, non succede nulla per 6 anni. Nel 2007 nuova news, il film si farà ma in CGI perché costa troppo farlo in live action. Poi però Aykroyd dice no, allora a questo punto non facciamo nulla, per favore, perché non mi sembra il caso. Passa un anno, Landis nel 2008 rassicura tutti i fan e dice, siccome era appena uscito il videogioco e tutti erano andati a comprarlo, ha detto state tranquilli, il videogioco ha dato uno scossone e vedrete che si farà un nuovo capitolo. Anche Aykroyd conferma, ma dice che non si occuperà più lui della scrittura e dice che gli piacerebbe moltissimo darla a qualche giovane, e i suoi nomi di punta sarebbero Seth Rogen e Judd Apatow. Ecco, questa deve essere un'altra idea, darla a loro due. Solo che Rogen ha detto no, per favore, non credo che sia una buona idea. Allora arriva una nuova trama, questa volta scritta da due fedelissimi di Remis, Lee Eisenberg e Gene Stupinski, che hanno scritto Year One, se avete idea, è quella schifezza allucinante che ha diretto proprio Remis sulla vita durante i dinosauri, per cazzate lì, una cosa disgustosa. Questa volta è un evento cataclismatico che arriva a New York, ci sarà un passaggio di consegna con una nuova squadra di Ghostbuster che verranno all'inizio, insomma, vi verrà insegnato il lavoro da quelli vecchi. Solo che anche questa volta si dice partiamo nel 2009, state tranquilli, la Sony, che ha finalmente acquisito i diritti, dice ma non c'è problema, nel 2010 uscirà, e invece niente, non esce nulla. Reitman dice non faccio più il regista, faccio solo il produttore esecutivo. Vanno avanti ancora le news, arriviamo nel 2010 in cui iniziano ad arrivare i nomi, Alyssa Milano forse, perché farà lo stesso ruolo che ha nel cast, come si chiama, Ashton Kutcher forse protagonista, Eliza Dushku, la Faris, tutti questi. Addirittura c'è una news che sarà un cartoon, ma per favore no. Madonna. Tutti sono d'accordo sul non fare effetti speciali di nuova generazione, perché hanno detto, ma li avete visti in Indiana Jones 4? Fanno cagare. E allora, non si sa più cosa fare. Esce una nuova news in cui Bill Murray dice io ci sarò, quindi da per la prima volta nell'ottobre del 2009 la conferma che ci sarà, ma solo se lui sarà un fantasma e Venkman, il suo personaggio, verrà ucciso nelle prime scene, così potrà rompere le balle a tutti, ma da fantasma. Questa era un'altra idea, un'altra sceneggiatura. Intanto ci sono almeno 3 sceneggiature completate, tra cui bisognerà scegliere, quando bisognerà scegliere. E poi la news, quella che è uscita qualche giorno fa, che sono stati scelti altri nuovi sceneggiatori che lavoreranno a un nuovo lavoro, quindi da zero di nuovo, sarà la quarta sceneggiatura, e tutti gli attori hanno detto sì, vedremo se farla, se sarà perfetto decideremo, insomma. Murray soprattutto e anche Aykroyd hanno detto che piacerebbe, ma solo se sarà perfetta. Voi sareste favorevoli a un Ghostbuster 3 adesso o no? Non so, io mi fido di Bill Murray, quindi viste le sue reazioni, se magari inizia a crederci anche lui, boh, perché no? Solo che, appunto, come dicono loro, se poco devo farlo deve essere perfetto, e insomma, la paura della boiata c'è sempre, massacrare il classico è il pericolo più comune. Non so, no, beh, ho risposto così a bruciapelo, ma non so se sarei così contento. Mi, allo stesso tempo chiedo perché, è proprio necessario. Aspetta, Reitman disse ai tempi, non abbiamo sfruttato al meglio la saga, quindi secondo loro sì, bisogna guadagnarci. Vabbè, in quei termini certo sarà sempre motivo di sfruttare, però boh, già il 2 era un, sì, è un pezzo d'infanzia, difficile essere cattivi, ma c'era già un calo, poi in più c'è il peso del appunto, si parlava di Indiana Jones, uno che li ha visti non può non avere un po' di emozione, un po' provare un po' di interesse per una cosa del genere, però poi appunto esce Indiana Jones 4 e ti dici, ah, stupido io che ci ho creduto, e quindi vorresti non ricascarci più. Poi tutte queste news, queste idee, io il videogioco l'ho giocato, non era malissimo, è stato un po' massacrato, era simpatico, però l'impressione dopo averlo finito è che tutte queste idee che dovevano essere applicate al film siano state messe nel videogioco, perché poi nel videogioco, a conti fatti, c'è la recluta che insomma viene interpretata inevitabilmente dal giocatore, i vecchi che passano il testimone in un certo senso, e poi c'è un ritorno al passato, che è una cosa tipica dei sequel che escono a distanza di anni, quindi sono tutti riferimenti al primo film, ai personaggi del primo film. Secondo me magari non l'hanno detto, magari non è voluto, ma molte idee passate al vaglio poi sono finite nel videogioco, perché insomma, chi l'avrà giocato capirà, ci sono davvero i presupposti per un possibile sequel che poi non è stato fatto. Secondo me, soprattutto se vogliono sfruttare il brand, ovvero continuando a fare sequel su sequel, magari una nuova trilogia come si fa sempre in questi casi, inevitabilmente dovranno riciclare l'idea del passaggio di consegne, e a quel punto diventa un elemento essenziale vedere chi sarà insomma la nuova recluta o le nuove reclute. Io ho sentito nomi sinceramente agghiaccianti dalla news che hai letto tu, cioè Ashton Kutcher, un botto di beh, attrici che non so quanto c'entrino, insomma. E a suo tempo, non so se era una cosa ufficiale o meno, si vociferò addirittura Ben Stiller, sì, e Luke Wilson. Quindi, cioè, sì. Come ho detto, quindi se ci sarà effettivamente questo passaggio di consegne, almeno il mio giudizio sarà influenzato soprattutto da chi sceglieranno per fare questo passaggio di consegne. Se saranno ottime scelte, insomma, non è che... non sono uno di quelli nostalgici che si fa più... influenzare più di tanto una fase fatta che si dice di solito e rovina l'originale, no, è una questione che non sta né in cielo né in terra. L'originale resta bello, il 2 un po' meno, però sempre gradevole, perché come diceva intrinseco è un ricordo d'infanzia, e non lo so, chi vivrà vedrà, insomma, non ho pregiudizi nei confronti di questo terzo episodio, solo che effettivamente a parte il riciclo di idee non vedo tanta... non so cosa abbia da dire la saga di Ghostbusters. Credo che il lavoro degli sceneggiatori sarà abbastanza in grado da questo punto di vista, perché io sinceramente non avrei idee, non faccio lo sceneggiatore, però così da fan dico che non avrei idee per specchiare questa saga. È una bella responsabilità, anche perché la stanno buttando tutta sulla sceneggiatura, che ovviamente è la base del film, però insomma stanno buttando tutta quella, quindi verranno linciati dalla folla questi sceneggiatori misteriosi. Però... Poi, volevo dire un'altra cosa, scusa, sul cast. Dicevi ci vorrebbe il passaggio di testimone, e questa è forse la cosa più difficile, perché Ghostbuster veniva da una generazione di comici che è memorabile, c'era gente che adesso è difficile ritrovare, quindi so, è stato il Saturday Night Live stesso che forniva questi volti, ha perso parecchia qualità, adesso sì c'è qualcuno, per esempio Sandberg, di cui noi due siamo fan, certo da un lato mi piacerebbe vederlo, però so, anche questo non mi rassicurerebbe, insomma non so se semplicemente sostituire nuovi comici, nuovi volti, sì sarebbe un fatto positivo, scegliere i giusti eredi dal giusto genere cinematografico, insomma. Nel 99 addirittura volevamo dare i ruoli dei protagonisti a Jason Van Der Beek e a Leonardo DiCaprio, perché erano i due di punta, quindi credo che la mentalità sia ancora quella. Non lo so, adesso lo darebbero a Hemsworth e insomma questi qui che sono i divi del momento. Da una parte io sono vorrei rivedere loro, perché sono loro i Ghostbuster, i personaggi originali. Però dall'altra penso, sì, Aykroyd ha una panza che fa provincia. Remis, non so se l'avete visto, anche lui è ingrassatissimo. Sì, sì. Murray è l'unico. Murray, vabbè, sì. Forma. Lui meno è sempre divino. Però più che altro vorrei che Aykroyd la scrivesse, perché la data dei giovani, che scrivono solo cazzate. E dall'altra parte, sì, mi piacerebbe un cambio... Però appunto scegliamoli bene, e soprattutto se ci sarà il cambio, quindi ci sarà il passaggio di consegna nel terzo capitolo, è quasi certo che ne faranno un 4, ne faranno un 5 e continueranno, quindi non facciamolo sto 3, boom, sono passati 20 anni dalla prima idea, basta. L'unico motivo di interesse per me sarebbe vederli in una New York cambiata parecchio. Sì, dopo, sì, sarebbe bello questo, forse è l'unica cosa che mi farebbe dire, insomma, sì, il cambio generazionale è noiosa, è strito e ritrito, però è l'unico fattore di interesse che potrebbe esserci, vedere loro invecchiati, la città cambiata, passaggio di testimone, però appunto poi c'è l'incombe, il sequel, la trilogia, l'esalogia, quindi no, sì, ecco, più no che sì, dentro lo vorrei vedere, il bambino che c'è in me vorrebbe vederlo, però... Boh, non voglio rimanere scottato, quindi... C'è il rischio di uno squalo 2, Il seguito inutile. Sì. Beh, in ogni caso, oggi abbiamo postato un'immagine sul nostro canale Facebook che rappresentava il logo di Ghostbusters inserito nel catalogo 2012-2013 della Sony, quindi forse c'è qualcosa di concreto già comunque, forse hanno già pianificato un'uscita. No, ma è così da sempre, cioè, come vi ho detto, nel 2001 hanno detto arriva, nel 2010 hanno detto arriva, nel 98, è così, è ciclico, ma... Vabbè, sono passati 20 anni. Magari è una strozzata, però stavo pensando, in quell'immagine c'è semplicemente la scritta, senza numeri, senza sfondo verde poi, che dovrebbe essere quello della vecchia copertina. Non è che stavano pensando di rimetterlo al cinema come è successo con altri classici, il primo? Probabile. Perché, boh, non so, senza numero, una cosa sì, è vero, è promozionale, non vuol dire nulla, però messo lì così mi ricorda la locandina, semplicemente c'è la locandina, la copertina... del DVD del primo, per cui pensavo magari un'operazione nostalgia come Ritorno al Futuro. No, forse tanto. Semplicemente perché Ghostbuster 3 è già stato fatto da Sam Macaroni, ricordiamo. Quindi magari c'è qualche problema su come chiamarlo questo 3, se con i numeri romani o con un numero con un semplice Ghostbuster sono tornati, una roba del genere. Però io non credo neanche che sia vera, l'hanno messa lì, forse è anche una roba fatta da un fan, non è che ricavalcando le ultime news hanno approfittato per creare un po' di hype, perché il progetto è in alto mare completamente, devo ancora scriverlo, devo riscriverlo, quindi vedremo. Vabbè, passiamo allora al prossimo argomento, ovvero parliamo di Toro Scatenato 2, visto che stiamo parlando di seguiti indesiderati, insomma. Allora, pochi giorni fa abbiamo manifestato su Twitter il nostro schifo nei confronti di questa notizia, ovvero dell'inizio delle riprese del seguito di Toro Scatenato, il famosissimo film del 1980, vincitore dei premi Oscar come miglior attore protagonista Robert De Niro e come miglior montaggio, film di Martin Scorsese appunto. E con la news dell'inizio delle riprese di questo seguito c'erano anche già delle immagini di alcuni fotogrammi che lasciavano intuire come il film affrontasse la vita di Jack LaMotta prima e dopo gli eventi narrati nel film di Scorsese, quindi una sorta di prequel barra sequel, insomma. Il film doveva essere diretto da Martin Guigui e interpretato da William Forsythe, prodotto dalla RB2 Productions. Tuttavia la MGM è intervenuta in maniera tempestiva, forte di un contratto di 7 pagine che si può trovare sul sito Deadline, un contratto che fu stipulato con lo stesso LaMotta nel 67 e che stabiliva praticamente l'ex pugile non avrebbe potuto cedere i diritti di altre sue opere letterarie ad altre case di produzione senza prima interpellare la MGM. In questo caso LaMotta ha ceduto i diritti a questa RB Productions senza interpellare la MGM. La MGM ha provato più volte a contattare gli agenti di LaMotta e della RB senza trovare risposta e quindi giorni fa ha intentato causa sia a Jack LaMotta che alla RB, asserendo che, forte quindi di questo contratto, che la produzione del sequel, titolo del quale tra l'altro rimandava appunto al film originale, avrebbe intaccato il valore di Toro Scatenato. E niente, non c'è molto altro da dire, fortunatamente quindi la MGM è intervenuta in maniera tempestiva, ha bloccato la lavorazione di questo sequel, secondo me di cattivo gusto, e non lo so se voi volete aggiungere qualcosa, non mi sembra che ci sia molto da dire su questa news. No, però dal comunicato della MGM, che sembrerebbe passare per essere dei santi che ci hanno evitato questa catastrofe, loro sono più incazzati perché LaMotta ha ceduto i diritti, non che stiano facendo una schifezza e stanno rovinando, non bisogna dire rovinando un film perché ne abbiamo già parlato prima, però il motivo è quello: oh, guarda che tu hai firmato un contratto con noi, poi oh, non fate un seguito perché oh, il primo è bello, siete un po' stronzi. Comunque io sono sicuro che il film uscirà, questa RB verrà svenata e dovrà pagare parecchio per farlo uscire, per vari diritti, uscirà con un altro nome, ma tanto si mette d'accordo. Che successo commerciale può avere un film del genere? Non è praticamente vero. Che... soprattutto con un titolo diverso, quindi. La Motta ha bisogno di alcol, eh. Sì. Non l'avete visto come era ridotto dopo? perché oltre a pugilato sono un attore raffinato, questo è intrattenimento. Insomma, era un personaggio che addirittura viene quasi nobilitato dal film di Scorsese, che lo mitizza molto. Il vero LaMotta, insomma, era ridotto malissimo, come si vede poi anche nel film. Probabilmente aveva bisogno di altri soldi, non so quanti anni abbia, non so cosa debba farci, ma per cosa, appunto, cos'altro c'è da raccontare e che interesse può avere uno spettatore? Il pugilato era la parte interessante, la caduta anche. Cosa dobbiamo vedere? Ancora lui che fa il comico nei localacci o lui da ragazzino? Quando si è fatto spaccare il naso, cioè non c'è attrattiva, è solo soldi, e infatti alla MGM interessano i soldi e si è fatto avanti per quello, come diceva lui, di certo non è un interesse artistico, è vero, boh, sembra cioè, surreale, perché dovrebbero fare un film, cioè, come fare seguito di A Spasso con Daisy, cioè, non capisco. Comunque il Giovinotto ha 91 anni, Ah, beh. No, cioè, nel senso, Toro Scatenato era un film sulla sua intera vita, che altro c'è da dire? Niente. Vabbè, lui avrà scritto un altro libro, un altro punto di vista, cose minori che non sono state dette, ma... E poi William Forsythe, mica Robert De Niro, oh, ma chi sei? Vabbè, dai, passiamo alla prossima, dato che non c'è molto da dire. Il nuovo film di Shyamalan, e ce ne parla Intrinseco. Evviva, sì. Ormai Shyamalan non ci crede più nessuno in quello che fa, comunque... dopo sono un paio d'anni dall'ultimo dominatore dell'aria, ricordiamo che Devil lo ha solo scritto, comunque ha scritto il soggetto, quindi non ha nulla a che vedere, è troppo interessante per essere un suo film. Comunque ci riprova con la fantascienza, se vogliamo considerare fantascienza e venne il giorno, e fa questo film che è già in post-produzione, dovrebbe uscire il 7 giugno dell'anno prossimo, quindi è una post-produzione lunghissima, ed è, si titola After Earth, e ha un bel cast, insomma, un cast ricco economicamente, c'è Will Smith e ormai l'ormai onnipresente Jaden Smith, il figlio, poi c'è la figlia, credo, di Lenny Kravitz, ne parlavamo prima, Zoe Kravitz e altri attori, tra cui Isabel Furman, che è una delle adolescenti esordienti di questi anni. E il film, non so, mi ha ricordato un po' Elysium, di cui abbiamo parlato recentemente, non so perché. Comunque parla di questo futuro distopico in cui la Terra è stata abbandonata per le condizioni naturali evidentemente poco adatte all'uomo, si è trasferito su questo pianeta, credo, che si chiama Nova Prime, e la storia si concentra su questo protagonista, ovviamente interpretato da Will Smith, si chiama Cypher, che in un viaggio di ritorno da o verso questo Nova Prime perde il controllo della sua navetta ed è costretto ad atterrare sulla Terra insieme a suo figlio, interpretato da un figlio, Jaden Smith, e quindi niente, il padre di famiglia rimane ferito e il figlio deve fare le veci dell'eroe e cercare di raggiungere un faro che segnalerà la posizione della nave caduta, immagino al pianeta di provenienza. Quindi, non so, di avere una trama priva di interesse, perché tutto il presupposto fantascientifico sembra del tutto inutile, perché insomma, sì, la Terra abbandonata, però ci torniamo su e ci facciamo un film di avventura. Quindi, non so, io non trovo altro di interessante da dire. Voi che ne dite? Io l'ultimo film che ho visto di Shyamalan penso sia Lady in the Water. Fermati lì. Che tra l'altro nemmeno era sto granché, quindi insomma. Eh beh, però guarda, quello uscito dopo. Che è il Venneggiorno. Venneggiorno e poi l'ultimo Dominatore dell'Aria, sì. Andiamo bene. No, non lo so. Trovo interessante che la situazione di Shyamalan sia diventata un po' paradossale, perché ha voluto fare un po' il Tarantino con Devil, ovvero aggiungendo il suo nome così sulla locandina per fare un po' di scalpore, però io ancora ricordo quel filmato che circolava su internet dove la platea, in attesa di vedere un film, veniva proiettato il trailer di questo Devil e al nome di M. Night Shyamalan schiamazzi, urla, gente che gridava oh no, insomma roba del genere. E il suo nome ormai è diventato sinonimo di flop, quindi non lo so, anche dal punto di vista commerciale è diventato un po' un reietto, quindi dal punto di vista qualitativo non lo so, ripeto, mi sono fermato a Lady in the Water perché avevo già intravisto i segni di un tracollo qualitativo pazzesco e niente, insomma non ho più fiducia nei confronti di quest'autore, quindi la trama, come hai detto tu, il presupposto fantascientifico va un po' a farsi benedire, quindi non so, non ho niente in particolare da dire, quindi passo la parola al Monco. Ma a me la trama può anche interessare, solo che è lui che ce l'ha in mano, quindi ha finito la fiducia, come hai detto te, non ce n'è più, passi uno, passi due, ma sono già tre orribili, questo potrebbe essere il quarto, non lo so, non riesco più a dargli fiducia. Mi dispiace, Shyamalan, mi dispiace. Shyamalan. È vero, perché è un regista che è passato da giovane promessa a chiavica nell'arco di un film, più o meno, che comunque Lady in the Water, sì, un po' bocciato, ma neanche troppo, e venne il giorno, proprio ha creato il luogo comune, perché magari dopo poteva anche riprendersi, ma l'hanno dato talmente tanto addosso che anche lui ha detto, vabbè, che faccio, qual è la mia risposta? L'ultimo Dominatore dell'Aria. E quindi si è dato il colpo di grazia da solo. Tra l'altro doveva essere una trilogia questa, evidentemente non gli danno neanche la possibilità di continuare ed è passato oltre, chissà. Ma nell'ultimo Dominatore dell'Aria c'è il colpo di scena finale? Che non finisce? Qual è il colpo di scena? No, non so. No, non lo so, chiedo perché... No, insomma, no, come dicevi tu... Il colpo di scena è quello, è una trilogia o una biologia, non lo so, comunque finisce lì e cioè, rimane tutto in sospeso. Colpo di scena è che è più brutto. Sulla carta doveva essere il suo colpaccio, perché era insomma una trilogia, doveva essere il nuovo campione di incassi, gli è andata malissimo. No, io chiedevo perché tu parlavi del fatto che è passato rapidamente da giovane promessa a come dire, Chiavica, esatto, sì. Chiavica. Pare, sì. Secondo me una delle ragioni di questo tracollo è stato il fatto che si è fossilizzato su un certo modo di fare cinema, soprattutto su questo bene amato twist, colpo di scena finale che insomma sì. Si è un po' fossilizzato su quello. È un po', ecco, colpa, quindi, del pubblico, e ovviamente soprattutto sua, però insomma chiaramente viene premiato il colpo di scena e lui continua a marciarci su e, insomma, vende. Poi quando glielo togli, perché Ne venne il giorno, per esempio, è una svolta rispetto ai film precedenti, insomma è una cosa molto diversa e si vede. Evidentemente era bravo a fare quello. Io non vorrei mettere nei guai nessuno, ma il papà di Intrinseco l'ha comprato e venne il giorno in DVD. Sì, sì, non so, no, io non ero presente, non ho potuto fermarlo, non so. Certo. Non so neanche se l'aveva già visto, probabilmente l'aveva anche visto, quindi è ancora più misterioso. Vabbè. Aspetta, scusa, e venne il giorno è quello delle piante? Sì. Ah, no, ho visto pure quello. Wahlberg che cosa fa, il matematico e... Sì. Quelle scene involontariamente ridicole di gente che scappa da un ciuffo d'erba, sì. Sì, vabbè, è vero che qualcuno all'inizio ci credeva, anch'io, un po' di curiosità ce l'avevo, perché oddio, chissà cosa ne tira fuori, è così strano che... O fai una puttanata, infatti, oppure, chissà, ti sorprende. Ma le scene migliori stavano proprio nel trailer, quella dove si portano gli operai dall'impalcatura, sì, con quello che piange. Sì, che tra l'altro veniva piazzato, grazie al trailer, come film violento, forte, no? Le morti, sì. Le morti che scioccano, due palle. Ce ne sono due, penso. Sì, quella Central Park. Ma quella gente che si suicidava è la stessa... ha fatto la stessa fine degli spettatori che hanno visto il film dopo, sono suicidati tutti. Beh, in effetti anche lì io mi ricordo che ho cominciato a camminare indietro e poi... Io non ho trovato un'impalcatura, quindi... Beh, tra l'altro geniale, no? La finezza, cioè, va tutto al contrario, cominciano a camminare indietro perché la mente funziona al contrario, invece l'istinto di sopravvivenza si muore, quindi tutto al contrario, mamma mia, da brividi, ragazzi. Da brividi. E vabbè, dai, pure questa l'abbiamo esaurito con le cose da dire, dai, passiamo alla prossima, ovvero vi parlo del reboot, ma è una parola che sta in bocca a tutti quanti a Hollywood, il reboot di Robocop. Allora, di questo reboot barra remake, insomma, ormai non so più come catalogarli così, se ne parla ormai da anni. Inizialmente il progetto doveva essere affidato a Darren Aronofsky, poi il tracollo economico della MGM, che compromise anche le lavorazioni su Skyfall, come abbiamo detto prima, come ci ha detto il Monco, fece sì che il progetto venisse congelato e quando sono ripresi i lavori, quando la MGM quindi ha trovato i fondi per continuare la lavorazione, Aronofsky ormai era impegnato in altri progetti e quindi si è deciso di affidare il film a José Padilla, che è l'autore dei due Tropa d'Elite. L'avete visti voi? No. Però hanno sentito parlare bene almeno del primo. Allora, ad interpretare Alex Murphy, che è il poliziotto che verrà poi trasformato in Robocop, sarà il semisconosciuto attore svedese Joel Kinnaman, che è la star del serial televisivo Killing, The Killing, che io personalmente non conosco, mentre invece il resto del cast, che si è andato via via componendo nel tempo, è di primo ordine, ovvero c'è Hugh Laurie che interpreterà il cattivo, il cattivone, il villain, poi Gary Oldman che sarà il dottore che trasformerà Murphy in Robocop, Samuel Jackson che interpreterà un membro della, che è la Omnicorp, come si chiama la... Sì, la Omnicorp, sì. La proprietaria di Detroit. Esatto. Interpreterà quindi quasi un addetto alle pubbliche relazioni di questa Omnicorp. E infine a Abby Cornish, che non lo so, la dicono tutti, c'è Abby Cornish Robocop, però io personalmente non la conosco, quindi vabbè, pazienza. Allora, lei sta Sucker Punch. Che non ho visto, ah, okay. Quindi... Quindi, Tropa d'Elite parlava di corruzione tra le forze dell'ordine. Quindi, casomai, visto che comunque anche in Robocop si vedeva questo elemento, il coinvolgimento di Padilla potrebbe far pensare al fatto che il film verta soprattutto su questa tematica. Tuttavia, Padilla ha... E basta, fa troppo ridere, non dirlo. Padilla, José ha affermato che invece l'argomento del film sarà la trasformazione dell'uomo in prodotto di corporazioni e tutte le discussioni etiche / morali che scaturiranno dal coinvolgimento di droni in battaglia, e quindi il discorso delle responsabilità che non sono più delle macchine ma delle corporazioni che li costruiscono. E vabbè, insomma, il fatto è che in settimana è iniziato il viral marketing del film, la cui uscita è prevista nel tardo 2013/2014. Nel filmato si vede, è appunto un filmato pubblicitario della Omnicorp che parla appunto di un drone aereo e del famoso ED-209, che era il drone corazzato che si vedeva, non so se è il primo o nel secondo, dove? Nel secondo? Nel secondo, cioè, no, sì. C'era forse anche nel primo, nel secondo forse è un robot diverso, quello in cui mettevano il cervello di Kane. Sì, comunque c'era anche nel primo. Sì, anche nel primo. E poi si incominciano a vedere i primi dettagli dell'armatura di Robocop, si vedono più linee spezzate piuttosto che le forme arrotondate del Robocop originale. Quindi ricordiamo Robocop, uscito nel 1987, diretto da Paul Verhoeven, e fiore all'occhiello erano gli effetti speciali di Phil Tippett e il make-up di Rob Bottin, di cui abbiamo parlato anche nella scorsa puntata. E niente, insomma, il discorso per il momento verte soprattutto sul look del robottone. Quindi secondo voi come sarà? Ma era brutto già quello di Verhoeven, perché farne un'altra? Vaffanculo. Ma di film, dice? Sì. No, il robottone era bello, cioè sia il robottone che Robocop erano molto omosessuali, e poi era bello quando sbroccava e faceva fa fa fa fa fa, invece questo mi sta... no, non lo so, non voglio più parlare, ciao. No, il primo era deliziosamente kitsch, quindi mi chiedo se poi fanno la solita operazione reboot con la tinta Dark, di cui abbiamo già parlato, che poi Dark non è mai, però se vogliono renderlo serio, secondo me il rischio di floppare, comunque di rendersi ridicoli, è altissimo. Ma perché rifarlo? È un prodotto così anni 80, non ha senso. Sì, che poi per quanto riguarda almeno le movenze di Robocop sembra un po' anacronistico. Sì, oggi non avrebbe molto senso. Se dovessi velocizzare, dinamicizzare, ma appunto, entra un Terminator. Sì, ma anche quello l'ho fatto oggi, appunto lo accelererebbero. Ma poi i Glory cosa fa? Fa Kane? Se fa Kane, allora io da un po' ci voglio credere. Sì, fa il villain del film, quindi immagino che sia Kane. Nel cast non viene detto nulla. Se è un rifacimento del primo, non è Kane, è semplicemente lo spacciatore che insomma uccide il poliziotto che diventerà Robocop. Ma altrimenti sì, se è Kane magari. Cioè, è strano vederlo in un film così. Beh, pure gli altri, insomma, Samuel Jackson, okay, fa Gary Oldman, sì, uno che una sua dignità artistica ce l'aveva ancora, soprattutto grazie a Nolan, chissà che come mai si è imbucato in questa cosa, non so, sono spaventato e confuso. Secondo me, di certo ci sarà che sarà molto diverso dal Robocop originale. Immagino mantenga solo lo scenario e... i vari nomi, Omnicorp e quella, tutto il discorso delle corporazioni, però come dicevamo è un po' anacronistico rappresentare Robocop come fu rappresentato nell'80. Chissà che cosa ci ritroveremo per le mani. No, il bello sarebbe proprio quello, un robottone inutile che viene pestato a sangue in continuazione. Lento, sì, lentissimo. Sì, sì. Sì, sì. Una commedia, una commedia esilarante, dove poi Robocop viene usato come robot da cucina. Film in sala. E adesso invece parliamo dell'argomento principale di questa puntata, che è The Amazing Spider-Man. Un breve riassunto della trama, eccola. Allora, c'è sta il solito ragazzetto sfigato che c'è una moria di gente in famiglia, che un giorno tanto per cambiava dentro un palazzo di New York e si fa pizzicata un ragno, no? Allora torna a casa e tipo rimane attaccato a tutte le cose che tocca. Allora tipo dice, mo questa roba che mi vendico dei mortacci dei parenti mia. E tipo mi faccio tipo una maschera di wrestling e la tuta del sadomaso della spandex. Ma intanto c'è sta pure un lucertolone che pare il merendero di Futurama che si mette in mezzo e non può e può trasformare tutti in lucertoloni a New York. Allora il ragazzetto dice, un tazzardà, e va per fermarlo, ma quello che più tanto che è molto più grosso di lui è corca de botte. Però il ragazzetto che c'ha la tipa buona, di quelle che proprio da sdrumi, e col padre poliziotto che gli dà una mano e alla fine salvano pure la città. E insomma, spoiler! Insomma, dovevi dirlo prima. Insomma, so Spider-Man pare la solita surfa per ragazzini bruvolosi che si ride e si diverte tanto, ma che alla fine strigne non c'è sta morto. Alla fine è pure lungo e c'è sta pure una scena dopo i titoli che non sa proprio di niente. Ma io dico, non si poteva fare a meno. Insomma, Johnny Palomba ci fa una pippa. Ecco qua, ha lanciato il guanto della sfida. Ma invece secondo me, che sono insomma quello che ne capisce di più di noi tre, insomma. È doveroso dirlo, ma secondo me Stringy ci si trova molto di più della media di film di genere, perché comunque, come ho detto anche nella recensione, sono rimasto sorpreso dal ritratto del protagonista di Peter Parker, appunto, che secondo me è molto meno caricaturale del ritratto offertoci a suo tempo da Sam Raimi. E quindi insomma è un personaggio vero questo Peter Parker, è un adolescente che potremmo trovare in una qualsiasi delle nostre scuole. Ormai, come ci ha detto anche 21 Jump Street, è un po' anacronistico parlare di nerd nella nostra società, insomma. E questo Peter Parker non è propriamente un nerd, è più un ragazzotto un po' incompreso. Sì, ok, c'è il bulletto, ma anche i personaggi di contorno sono piuttosto tridimensionali, nel senso che comunque vediamo che il bulletto non è il solito scimmione che tira ragazzotti agli armadietti. E niente, insomma, quello che mi ha stupito è proprio il fatto che, almeno nella prima parte, che è quella un po' più discorsiva, un po' quella che poi è quella introduttiva, viene buttata molta carne a fuoco, anche in vista magari dei sequel, quindi vediamo come la tematica della vendetta a un certo punto, dopo un discorso chiarificatore con il capo della polizia Stacy, viene sospesa, e quindi molto probabilmente ce la ritroveremo nel sequel. Al contrario, ci sono scene di famiglia che secondo me offrono una rappresentazione molto dettagliata, sebbene insomma lo spazio che gli venga offerto sia abbastanza ridotto. Però insomma è una famiglia vera, non è la famiglia Mulino Bianco che si vedeva nei film di Raimi. In tal senso, secondo me, anche la scena dell'omicidio di zio Ben, che vabbè, penso sia uno spoiler, ma lo sanno tutti, insomma, è stata una scelta saggia metterla, diciamo, in maniera molto ravvicinata alla presa di coscienza dei poteri di Peter, mentre invece nel film di Raimi i tempi erano molto più dilatati. E niente, insomma, a me sinceramente è piaciuto molto, a parte al netto di una seconda parte più action, che in cui Webb denuncia tutte le sue, come dire, di incapacità di gestire un villain decente, e in ogni caso la narrazione si fa più frammentare, insomma. Alla fine, comunque, quella di non avere un villain decente è un po' un problema comune dei primi episodi delle saghe supereroistiche. Secondo me la scelta migliore l'ha fatta Nolan, che in Batman Begins ci ha messo un non cattivo, ovvero Ra's al Ghul, e un paio di macchiette come Carmine Falcone e Scarecrow, lo Spaventapasseri. In questo caso viene messo, viene inserito un cattivo che è Lizard, che o Lizard o Lizard, non lo so come si pronuncia, che secondo me denuncia un Lazar denuncia un potenziale inespresso abbastanza contundente. Liza Minnelli dicevo, denuncia un potenziale inespresso abbastanza consistente, perché comunque si porta dietro parecchie tematiche, parecchi argomenti che come caso me meritavano maggior approfondimento. Invece, ovviamente, se prendi tanto spazio per rappresentare Peter Parker, alla fine non ne hai di spazio per rappresentare in maniera degna un cattivo decente. E quindi, insomma, si finisce un po' a caciara, però secondo me ci sono molti più spunti di riflessione da affrontare in un sequel di quanto non ce ne fossero nel film di Raimi. Ecco, magari quello che appare più evidente in questo film è la pianificazione di una trilogia. Quindi magari un giudizio più consistente lo si potrà dare solo alla luce dei sequel, forse. E non lo so, se Intrinseco vuole smentirmi in tutto e per tutto, prego. Ma io non voglio fare un paio di considerazioni. Non l'ho disprezzato completamente, non è, come ho già detto prima, non ne sentivo la necessità, ma in generale l'idea del reboot a così breve distanza, anche se poi il risultato è buono, mi lascia sempre un po' freddo. In questo caso mi è piaciuto il ritmo della narrazione, cioè non ho avuto l'impressione che fosse un po' troppo frammentata. Ci sono una serie di scene messe in sequenza che dovrebbero, insomma, dar spazio a tutto, alla crescita del personaggio e poi allo scontro. Quindi niente, non sembra un po' scritto male, ecco, ho avuto questa impressione. Sì, rispetto al film di Raimi certi aspetti li affronta un po' più seriamente, va bene, questo glielo concedo, però appunto una cena in famiglia con il capo della polizia e lui mette da parte la vendetta, perché sì, entra in un edificio, viene punto, minuti dopo è già consapevole di tutto quello che deve fare. Sì, c'è la scenetta comica, c'è la perdita di controllo dei poteri, però non so, quello che mi viene da spontaneo chiedermi è come mai adesso i film sono sempre più lunghi e c'è sempre questa scusa, c'è sempre questa giustificazione, è troppa carne al fuoco, cioè è difficile, una volta in un'ora e mezza, in due ore si faceva il giusto, adesso come mai non è più possibile, cioè davvero non si poteva fare diversamente, pure non dura poco, e a me sono pesate quelle, cosa sono, due ore? Più di due ore, certo. Sì. Non so, io l'ho trovato davvero scritto abbastanza male. Poi, come hai detto tu, tu hai apprezzato la prima parte, io neanche quella. Nella seconda non c'è questo, non so, non c'è una gestione adeguata dell'azione, soprattutto non c'è una compensazione di quanto uno si aspetterebbe. Il cattivo, sì, poi al di là dell'aspetto fisico, che insomma, sono d'accordo con quello che si diceva. Questa computer grafica non piace, almeno a me. E poi sì, ecco, anche lì tutto liquidato piuttosto in fretta, un cattivo non sfruttato adeguatamente, perché secondo me era forse quello perfetto. Tu parlavi di lo spaventapasseri in Batman Begins, secondo me questo è stato, cioè Lizard è stata la scelta giusta per far maturare il personaggio, è il legame col passato, è un cattivo tra virgolette marginale, e quindi era l'occasione per avviare da zero, anche perché mettere Goblin subito, come è successo a Raimi, poteva essere controproducente. E invece, secondo me non ne è valsa la pena di rifarlo. Ecco, secondo me, come dicevi tu, il fatto che la narrazione è molto frammentaria, ovviamente ho detto, secondo me la prima parte non è così, ma il fatto è questo, è che sembra che le scene d'azione, tutto ciò che riguarda comunque il confronto tra Spider-Man e Lizard, sia stato inserito a forza, senza un criterio comunque di conseguenzialità. Cioè così, scene buttate un po' alla cazzo di cane, diciamolo, perché tanto cazzo si può dire sui podcast. Leggevo un articolo giorni fa su, non mi ricordo se Collider o uno di questi siti, insomma, da cui attingiamo per le nostre news, Uno dei consigli che davano alla produzione di The Amazing Spider-Man per il sequel perfetto era proprio quello di affiancare a Webb una seconda unità con un regista capace di gestire comunque le sequenze action. Secondo me non sarebbe un'idea tanto malvagia. E niente, al di là di questo, comunque, io credo che la gestione di queste scene sia magari anche dovuta al fatto che, se non sbaglio, il film è stato riscritto più di una volta, perché comunque si trattava di un reboot e bisognava trovare una sorta di giusta via per far ripartire la saga, quindi magari anche questa gestione magari un po' travagliata ha portato... Sì. Io non sapevo questo, non sapevo che avesse subito varie scritture, ma secondo me si sente proprio ma il non classico più di una, problema. Cioè... Si partiva da uno script di non mi ricordo chi, di uno degli sceneggiatori accreditati, ma poi comunque ci si è inserito anche Mark Webb e in un certo senso la mano di Mark Webb si sente, magari è un po', sembra un po' azzardato parlare in termini di stile dopo solo i due film, però nelle scene comunque d'amore, che forse secondo nelle scene comunque anche di vita comune di Peter Parker, che poi secondo me sono le cose migliori del film, sente pesante la mano di un regista che evidentemente è più portato a quel tipo di scene. Stessa cosa non si può dire casomai delle scene d'azione, come abbiamo detto, però evidentemente nello script di base queste scene erano magari avevano un'importanza meno preponderante, proprio con l'arrivo di un regista del genere, casomai hanno assunto tutt'altra dimensione, ecco. Però io ancora non sento il Monco. Il Monco che vuole dire su questo? È quoto quello che dite, tanto quoto si può dire nei podcast, quoto sì. Quello che dite della scritto male, ma tanto è un comic, chi se ne frega, cosa vuoi che gliene freghi a quelli che lo guardano? E poi, sì, soprattutto le scene messe tanto per, sembra quasi che, insomma, Spider-Man conoscono tutti che inizia in tal modo, deve fare certe cose, allora gliele mettono queste scene proprio messe lì, solo per arrivare poi alla trama che hanno pensato per questo capitolo. Non so, il film, io sapete quanto odio i comic movie, i supereroi e cazzate varie, quindi... Sono andato al cinema non con pregiudizi, sono partito, devo dire che nelle due ore prima di entrare in sala ero tranquillo e volevo quasi quasi godermelo, solo che poi, insomma, è la solita storia, tu dici che aggiunge delle cose in più in confronto agli altri, che io ho detto che stringi non c'è nulla, mentre tu hai elencato cose che secondo te ci sono e... Io però non le vedo, mi sembra il solito film, con la solita struttura, con le solite cose, che va a finire nella solita maniera, sembra quasi che hanno un loro paradigma che devono sempre seguire, guai ad andare fuori dagli schemi, guai a fare qualcosa di diverso. Forse Capitan America lo faceva, ma perché, non che sia un bellissimo film, però era un po' diverso nel genere supereroi, forse perché proprio lui è diverso dagli altri. Sì, io una precisazione prima che mi prendano per pazzo, cioè io non ho detto che è scritto male, io ho detto che comunque ho avvertito, no, era come l'avete avvertito anche voi, una sì, vabbè, però ho detto come avete quoto chi avete sì, detto, no? Io dico ho avvertito quella, diciamo, poca coerenza tra le parti action e la parte comunque più parlata, ecco. E Sì, chiudo. E ti quoto, questa volta te solo, personalmente, quando dici che la parte romantica è migliore di quella action, proprio perché il regista è di quella natura. Quindi io mi sono goduto la parte romantic. Parte rom? No, no, dai. Rom-com. Ascoltano i leghisti. No, questa è una rom-com. E mi sono goduto quello, mi sono goduto una bravissima, bellissima, vuole venire via con me Emma Stone, e per il resto galleggiavo non stavo sprofondando, galleggiavo, ma poi è arrivata la scena delle gru e allora mi sono suicidato, non ne ho potuto più, da quel momento in poi ho detto vaffanculo. Ma comunque tu dicevi non hai visto questi elementi che ho elencato prima, Però secondo me, non lo so, forse tu non hai visto The Avengers. No. Ecco, che è già un film supereroistico diverso, nel senso che comunque, secondo me, non si può negare che questo Amazing Spider-Man in qualche modo tenti di far affezionare lo spettatore al personaggio, magari anche rappresentandolo con qualche linea di dialogo di più del film medio dei supereroi, è questo che intendevo dire. Porto l'esempio di The Avengers, sì, The Avengers film godibile comunque, i personaggi fanno cose mirabolanti, le fanno in maniera eccezionale, però cioè, non c'è la sostanza prima, perciò io che casomai intendo il film supereroistico in maniera diversa, avrei preferito che ci fossero stati dei film decenti prima di arrivare a The Avengers, in modo tale da provare qualche sorta di empatia nei confronti di questi personaggi. Allo stato attuale, questi personaggi sono dei tizi in costume che vanno a combattere l'ennesima invasione aliena. Ecco, in The Amazing Spider-Man secondo me c'è qualcosa di più, nel senso che comunque se non altro si prova a offrire un ritratto di un personaggio un minimo più approfondito. Poi secondo me ci riesce, secondo voi no, però insomma almeno questo secondo me gli va riconosciuto a Webb. Passiamo a Womb e ce ne parla il Monco. Sì, colgo anche l'occasione per ricordare a tutti che si sono appena sciolti i Chumbawamba. Forse molti se li ricordano, molti no, però è successo. E niente, Womb, c'è sta sta ragazza che se fa mette incinta, Womb inizia con due bambini sulla spiaggia, Rebecca e Tommy, che fanno amicizia durante una vacanza. Lui abita lì, lei è in vacanza nella casa del nonno. E il tempo proprio di conoscersi e anche un po' di innamorarsi, nonostante abbiano 10-12 anni, e lei deve partire per Tokyo, dove la madre ha trovato lavoro. Torna lì sulla spiaggia 12 anni dopo, ormai cresciuta, ormai divenuta Eva Green, e rincontra Tommy. E tra i due è come se non fosse passato neanche un giorno, sono di nuovo vicini, sono di nuovo innamorati tra di loro e questa volta vivono l'amore in maniera diversa. Questa volta neanche il tempo di conoscersi ancora meglio, e durante un viaggio lui viene travolto da una macchina e muore sul colpo. Lei è distrutta, però siccome siamo in un presente futuro, non è facile capire perché è un film diciamo sospeso nel tempo, non si capisce se siano davvero all'epoca. Però siamo in un periodo in cui c'è la clonazione umana e quindi decide di essere lei stessa la donna che partorirà il clone del suo fidanzato Tommy. I fidanzati di lui sono un po' scettici, dicono ma scusa, ci hai pensato bene? E lei però è convinta. E il film è appunto lei che lo cresce e una volta divenuto adulto si ritroverà davanti, ormai lei però invecchiata, l'uomo di cui era innamorata, e quindi è tutto sulla sua reazione psicologica di vedere un uomo che non potrà più amarla perché in primis è sua madre, sarebbe incesto, almeno dal suo punto di vista che non sa quello che è successo, secondo lei appunto è invecchiata e non è piacente, anche se Eva Green non è appunto piacente, e poi lui è ha una fidanzatina, ha una relazione, insomma, non penserebbe mai alla madre come una relazione vera. E quindi lei è distrutta da questa cosa che ha dato vita al suo uomo, ma è una relazione impossibile perché è lui, perché è il clone, ma è anche un'altra persona. Insomma, è un film molto interessante, morboso, perché parecchio strano e niente, affascinante fin dai titoli di testa, che sono molto scarni, molto minimali, anche quelli di coda sono identici, delle scritte su uno sfondo viola molto belle, e poi il film stesso è glaciale, è un po' come i cloni che hanno sempre questa idea nel cinema che sono privi di emozioni, che poi non è mai così come nel Non lasciarmi. E insomma, un film che consiglio, lo metto già nei consigli finali, non riuscirete a vederlo perché a quanto a quanto pare sì, è uscito 2 anni fa in America e ha vinto anche a Locarno, ma in Italia non c'è una sala, nonostante sia la data d'uscita era venerdì. E ricorrete ad altri modi per vederlo, perché vale davvero la pena. E niente, la chiudo qui perché siamo parecchio avanti col tempo. Sì, sì, sì. Intrinseca è passato a Radio 105 con Darkman. Sì, è vero. Siamo soli ormai. Passiamo ai consigli e boh. Sì, infatti, non so, tu c'è qualcosa da consigliare. Ma io vi consiglio, se non l'avete mai giocato, è L.A. Noir. Se siete degli appassionati degli anni 40, del genere noir, vi divertirete a girare per una Los Angeles rifatta alla perfezione. Non è un giocone, non è stato quello che aveva promesso, non è un GTA soprattutto, mettetevelo in testa, perché molti sono lamentati che non puoi fare un mucchio di cazzate, ma era chiaro fin dall'inizio. E boh, consiglio solo questo. Intrinseco invece, che non è più in linea, ha detto che vuole consigliare un film delle Barbie e, sì, sì, infatti, e le Winx 3D. Sì, esatto, ecco. E niente, io invece che cosa non vi consiglio niente, perché anzi sì, perciò ho un consiglio: se siete appassionati come me della saga Il Cavaliere Oscuro di Nolan, uscirà a breve su siti tipo amazon.co.uk un volume che in 300 pagine e passa, insomma, parla della lavorazione dei 3 film di Nolan. Il prezzo, a dispetto di altri volumi della stessa risma, è di sole 16 sterline, sole relativamente, però insomma gli altri volumi costano anche al di sopra delle 20. Vabbè, buono. Sacco di immagini ci saranno, insomma, quindi se siete appassionati, immagino che quello delle 16 sterline sia il pezzo del pre-order, quindi fate un po' i voi conti, uscirà il 20 luglio, quindi in concomitanza con l'uscita nelle sale nei mondi civilizzati, non nel nostro paese da terzo mondo. E niente, Intrinseco si sta scrivendo che consiglia a tutti quanti il film Il Popolo dei Minimei, sì. Vabbè, Bessone, grande. No, non era, sì. Bessone, sì, era Bessone. Sì, sì, era Bessone, era Bessone. A proposito di consigli, la prossima settimana daremo almeno 16 consigli tra film e varie robe, perché stiamo preparando tutti quei film che non sono usciti in Italia e non usciranno mai, e quindi sarà solo consigli più o meno. Sì. Anche perché non puntata... esce. Sì, sì, esce giusto Biancaneve e il Cacciatore, di cui abbiamo già parlato. Sì, magari riappala nel blog. Sì. E io sì, ho già visto Free Runner, che esce venerdì, che è una cagata allucinante, ne scriverò a tempo debito. Sì, e quindi insomma faremo una puntata speciale sul cinema invisibile, esatto. Su quei film che probabilmente non verranno mai distribuiti qui in Italia, quindi ci auguriamo che possa essere di vostro gradimento. Parleremo finalmente di The Raid Redemption, di cui Dacia sul forum di Games Village ci aveva chiesto di parlare, insieme a tantissimi altri film. Vabbè, insomma, non abbiamo nient'altro da dire, abbiamo ampiamente sforato il nostro standard, che ormai si era attestato sui 67 minuti. Vabbè, oggi c'era tanto, oggi. C'era tanto, sì. Vabbè, allora, passiamo ai saluti, dai, fai un salutino, Monco. Ciao! E vi saluto anche Intrinseo, che ormai è... La sua connessione è deceduta, vi saluto anch'io, ci vediamo fra una settimana circa. Bye bye. Ah. Vi ricordo che tutti i nostri contatti si trovano nella colonnina a destra del nostro blog. Ci sono i contatti per la pagina di Twitter, per inviarci una mail, per abbonarsi a iTunes e ai feed RSS, ma soprattutto per mettere il mi piace alla pagina di Facebook, dove siamo soliti mettere i trailer e le news di cui parliamo con il podcast. Non ho altre comunicazioni da farvi, vi dico solo che per chi pensa che siamo un po' freddini, in coda al podcast metteremo un simpatico siparietto che ha avuto luogo all'inizio della registrazione di questa puntata, in cui io non riuscivo a dire che dedicavamo la puntata ad Ernest Borgnine. Durò un po', decidete voi se skipparlo o meno, però spero che possa farvi fare qualche risata, perché noi ne abbiamo fatte veramente tante. Saluto a tutti, ci ritroviamo per la punta 6, come diremo sarà molto particolare, non parleremo delle news settimanali e di film settimanali, ma del cosiddetto cinema invisibile, ovvero di quei film che non trovano la distribuzione in Italia. Grazie e arrivederci. Allora, vabbè, prima di iniziare io credo sia doveroso dedicare questa puntata a un grande che ci ha lasciato in questa settimana, mi sembra l'altro ieri, ovvero il grandissimo... Ah, ma quello? Cazzo, io mi voglio di memoria, mannaggia. Ernesto Borgnino. Finalmente è morto, ma adesso... Rifacciamola. No, dai, è bella così, spontanea. Che ce frega. Oh. Credo sia doveroso dedicare questa puntata a un grande che ci ha lasciato questa settimana, ovvero Ernest Borgnine, il Monco. So che era uno dei tuoi preferiti attori di teatro, di cinema, di... Cazzo, non viene. Vabbè, voi... non la dedichiamo a dal basso. Voglio leggere una poesia in onore di Ernest Borgnine. Come Ernest Borgnine, R come razzi, Ernest Borgnine, eccetera. Che fa? La riparto? o la fai? O lo lascio così. Dai. Aspetta, ma gli è da ridere, no? E qui ho sentito i canti gregoriani. Tu pensa che io volevo fare l'editing minimo stasera. Sarà difficile, vabbè, all'inizio poi magari... All'inizio sarà tipo un collage, vabbè. Allora, sembra doveroso... no, che cazzo... Ma anche il tono, è proprio una cosa brutta. È semplice. Sembra doveroso... Basta, dillo tu, Monco, visto che io non sono in grado... Allora, sembra doveroso dedicare questa puntata a un attore. Perché sembra doveroso? Benati, fammela dire così, dai. Oh, dedichiamo questa puntata. Benati, no, sembra doveroso. Vado io, aspetta. Sembra doveroso dedicare questa quinta puntata a un grande attore che è scomparso, uno che conosciamo tutti anche per dei film italiani che ha fatto, e cioè Dino Cassio, che era